Cairo, ma non vale nemmeno 40. Guarda, ti dirò di più, meccanicamente la mezz'onda Venom secondo me dura di più della Ringo, meccanicamente è più resistente per via di quella staffa che c'ha a L, no? Che poi è la stessa staffa che monta l'antenna mia. Elettricamente non saprei quanto può durare una. Infatti io la volevo montare la Venom che ho io in campagna per fare prove, per usi futuri, per avere, non lo so, la volevo montare, però ancora non ho convinto la padrona della campagna, capito? Ci lavorerò su. Capito Gio, però 200 euro è per una mezz'onda, è lo stato dell'arte di un'antenna mezz'onda, e lo stesso si dica per la 5 ottavi della Grazioli. Poi addirittura hanno fatto quella 5 ottavi più un quarto d'onda messo in fase, è enorme, è alta 10 metri, è una cosa spettacolare, però lì è impegnativa, lì devi avere una campagna, non è dove puoi mettere in condominio, devi tirantare eccetera. Io mi accontenterei della mezz'onda, però ripeto, una mezz'onda da 200 euro più spedizione ovviamente, Giulio, però i materiali sono al top, quello niente da dire, vai Giulio. Sì, in effetti hai ragione, oh Marco, hai ragione per quello che hai detto, perché io ripeto, non la comprerei mai la Ringo, sai perché? Soprattutto per il fatto che basta una piccola pioggerella, subito ti salgono le stazionarie. La Ringo ha quel problema, magari può essere anche una buona antenna, ma sempre quando è asciutta, una volta che si bagna sei fregato, perché devi aspettare fin quando l'antenna non si riasciuga, perché se no avrai sicuramente delle stazionarie al limite, o quasi sei superiore al limite, perciò è meglio non comprarla mai la Ringo. Questo è quello che penso io, ma da sempre, però non da adesso, ma da tantissimi anni a questa parte, la Ringo ha avuto sempre quel problema. Vediamo cosa ne pensa Daniele. Senza contare che l'ultima Ringo della LEM hanno alterato il progetto originale, hanno fatto uno schifo, perché tu quando ti arriva non ti dicono dove mettere, come tarare la lunghezza dello stilo. Tu praticamente devi impazzire con la bobina a cercare un punto di risonanza, devi impazzire. Io l'ho provata sull'antenna, sul terrazzo di nonno, e questa antenna risuonava sui 23-24 MHz. E in qualsiasi punto della bobina tu mettessi il morsetto non risuonava, allora ho dovuto accorciare lo stilo facendo rientrare gli elementi fino a 4 metri, cioè antenna da 5,50 m che dovrebbe essere in origine, e l'ho dovuta far diventare di 4 metri per riuscire a farla risuonare in 27. Questo senza contare che dopo un anno se ne stava uscendo lo stilo, si stava proprio smontando l'antenna e l'ho dovuta togliere e ho messo questa qui, capito Giulio? Sì, ma è così, in effetti è così, io non la consiglierei mai a nessuno un'antenna Ringo, proprio per il semplice motivo che ha mille problemi, oltre al fatto appunto, come stavi dicendo, che per tararla bisogna impazzire e tante altre cose, ma soprattutto per il fatto che basta un po' di rugiada, la notte c'è una nottata umida che scende un po' di rugiada, tu all'indomani vai a schiacciare la portante e te le trovi con le stazionarie un pochino alte o addirittura superiore alla norma. No, non va bene assolutamente. Avanti Giova. E c'è anche quel problema, infatti c'è anche quel problema, anche se sinceramente io ho l'antenna, l'ho tenuta da tanti anni, piazzata la Mantova Turbo, e parlo della Mantova Turbo che ha i radiali 1,60 m e grossi 1 cm di diametro, sono tubi praticamente. E devo dire che la mattina, quando una volta ho visto, roba di 5 o 6 piccioni sopra l'antenna, poi appena che mi hanno visto che io sono uscito dal terrazzo, hanno spiccato il volo, e però non è successo niente, perché quando spiccano il volo una certa spinta sul radiale c'è, erano tutti posati su questo radiale e non è successo niente, anzi non l'hanno nemmeno piegato. Mentre invece quando avevo l'altra antenna prima, la Stella, che ne aveva 16 di radiali, che l'ho tenuta però quella 35 anni, quell'antenna lì l'ho tenuta, quelli a uno me li hanno buttati giù, ma erano dei radiali sottili da 8 mm di diametro, praticamente niente, nemmeno un centimetro, e non è che erano molto resistenti, però l'antenna era buona, l'antenna era una meraviglia, rendeva che era veramente una bellissima antenna. L'ho tenuta a 35 anni, ce n'erano 16 radiali, a uno i piccioni me l'hanno buttati giù, tutti i radiali, poi alla fine l'ho dovuta cambiare chiaramente, e ho preso la Mantova Turbo, che adesso ripeto l'ho tolta e uso la Game Master. Avanti Marco. Ascolta, la Stellar qual era? Quella che aveva quel lampione trasparente dove vedevi la bobina? Bravo, proprio quella, era un'ottima antenna, ma bella, bella, bella. Con quell'antenna sono arrivato in Florida in giornata di propagazione, Marco. Oh, a parte tutte le considerazioni che si possono fare quando c'è propagazione, io so solo che con quell'antenna sono arrivato in Florida. Stiamo parlando dell'America, non è che stiamo parlando di lì dietro, in giornata di grande propagazione magari, però ci sono arrivato. Sì. E c'era la Sirtel anche all'epoca, quelle marche che sono sparite, lo stesso Sirtel, modello, aspetta qual era, boh, non mi ricordo nemmeno, va bene. Dipende dalle tasche. Comunque ripeto che queste Venom sì sono ambigue, però il comodo è che tu vedi, gli hanno fatto i segni col pennarello, tu la piazzi così infilando gli elementi fino al segno del pennarello e magicamente l'antenna risuona, che è un bijou, ti tiene 200 canali. Però giusto quello, però ricordati appunto che SVR basso non vuol dire resa. L'SVR è una cosa, la resa è un'altra. Beh, certo che sì, in effetti è quello. Ci sono dei parametri da considerare anche a riguardo di quello, certo che sì. In effetti è così. Che ne sono? L'una meno un quarto passato, va. Tra un po' lo vedremo lasciare, anzi tra qualche minuto. Avanti Giova. Sì, ma è così, lo so, quando si posano sulle antenne questi volatili alle volte cominciano a rompere le scatole, soprattutto le cornacchie, anche qui dove sono io la mattina, anche stamattina c'era uno che ha intonato un bel coro, ha intonato, forse chiamano i suoi simili, non lo so, evidentemente è così, per cui li disturbano anche, vabbè comunque, vediamo un po' chi era quel bip. Giulio, hai sentito poco fa? Non ho capito Daniele, ho sentito un bip abbastanza potente. Un bip? No, ero io poco fa, ma lo stavo uscendo sicuramente. Ah ok, vabbè riprendi, dai, fai il passaggio, io mi devo lasciare adesso. Dunque già da questo momento vi saluto, è l'una meno 10 quasi, manca un minuto all'una meno 10, per cui devo lasciarvi. Io vi saluto e vi ringrazio per la chiacchierata, ci sentiamo eventualmente anche stasera se coincidono gli orari, per cui non c'è problema, se no pazienza alla prossima volta. Ciao Daniele, grazie per la chiacchierata, subito ti rilancio il microfono. Ciao Giovanni, salutoni, mi dispiace lasciarti, però non posso farsi più da ponte perché loro non ti sentono, ma se io chiudo loro non ti sentono, non posso rimanere comunque. Ciao Marco, alle prossime, fatti sentire magari stasera se coincide, tanto sicuramente la giornata non è che sia delle migliori, perciò non so quanta gente abbia il coraggio di uscire stasera. Alle prossime, io vi saluto tutti e tre e vi auguro buon pranzo a tutti. Dai, chiudo dopo aver ascoltato il vostro finalino. Avanti Marco. Ehi a Giulio, buon pranzo, e ci sentiamo quando capita, dai. Ok, grazie della chiacchierata e alle prossime. Vai Daniele. Campa di roba, dai Giulio. Buona carica e buon tutto, un saluto al Correa familiare. E ci ascoltiamo stasera alle prossime circoincide, dai. Grazie anche a te del piccolo question, va bene, va bene. Riprendi Marco. Ok, ci sentiamo di nuovo, ciao ciao. Ok, ciao Giovanni, ci sentiamo. Vi lascio, ciao, chiudo. Ciao Giulio, ciao. Ciao, oh, ciao Tino. Chi è Tino era, sicuri? Ciao Marco. Cazzo ne ha geniali, sicuro che sei tu? Ebbene sì, ho cambiato l'antenna, ho messo una Grand Prix. Cazzo, alla mia Grand Prix. Allora, questo smitter sì, 9+25. Questo è lo smitter del presidente piccolino omologato, 9+25. Devo abbassare. Sì, sarai... Quanti saranno in centinaia? 3, 4, 5, 6, quanti saranno? Ah, poco di più di 900, dai. Cazzo, occhio al contattore, alla bolletta. Sì, stavo parlando di antenne perché Giovanni che non sentiamo purtroppo, io non proprio zero, Daniele tantomeno. Stavo parlando di antenne e di evitare il Venom perché sono ambigue, assai strane come antenne. Stavamo vantando le grazioli, a me piace la mezz'onda, perché è più leggera, non ha radiali, però è spettacolare come materiali. 200 euro di mezz'onda, però quella dura una vita. Non che la debba comprare, però, che ne so, dovendo cambiare QTH o antenna, quella è proprio belicetta. Vai, Daniele. Ciao, Tino, non so se mi ascolti da quelle coordinate. Io sono Calimero, piccolo e nero. Ciao, Daniele, già ti ascolto, S6-7, bassino, mezzo QRM, però già riesco a sentirti. Ho sentito anche a Giovanni, ma anche lui è piccolino, ma riesco a prenderlo fuori. No, sono entrato a salutarvi, dai, giusto per così, per farvi sentire, perché devo fare delle cosette di casa, dai, quindi stanno aspettando a me. Vai Marco. Sì, Attino, dai, allora ritieniti salutato per il tuo cuore di fare, se di mangiare e tutto quanto. E quindi a Giovanni arriva basso addirittura anche da te, dovrebbe essere in zona vostra, no? Ah, vabbè, Giovanni lo ascolto io, Lo ascolto, aspetta che posso poi batto. Ora, tanto poco cambia. Sì, zona Sorso. Però dico, se arriva bassino a te, insomma, qua proprio zero, non sento alcuna modulazione, sento solo il QRM. E vabbè, e quindi anche lui stavamo, se non vuole spendere molto, gira la Energy è già migliore della Venom, almeno come bobina. Non costa molto, è leggera, pesa la metà, che ne so, di una Mantova, quindi volendo se il palo è basso, tipo 4 metri, non deve nemmeno tirantare, boh, vedrà lui, da. E allora, ciao Giovanni, se mi ascolti, se arrivo io alle tue coordinate. Va bene, dai, mi sono arrivato, devo mollare. Marco, se coincide ci sentiamo stasera, dai. Ciao a tutti. Eia, ciao Tino, dai, buon tutto, ci sentiamo. Ciao Tino, alla prossima se coincide. Eia, Giovanni, se mi copri, ritieniti super salutato. Anch'io qua, visto che si approssima l'una, vado in cucina e mi invento qualcosa per il pranzo. A breve. Va bene. E che altro dire, Daniele? Che altro dire? Sto poco del drone, ma non sto uscendo. Non lo so. Va bene, Marco. Adesso ti lascio che c'ho una pasta e ci ascoltiamo stasera se coincido alle prossime, dai. Ciao Daniele, scusami, se mi stavo andando senza salutarti. Ciao. Ciao Tino, alle prossime. Ciao Marco, buona carica e buon tutto, dai, saluto di circolare a tutti. Ciao Daniele, buon tutto, ciao.